C'è un gesto semplice che può aiutarci a capire se il nostro cuore lavora di buon ritmo e con il giusto ritmo, misurarci il polso. In linea con noi il professor Alessandro Capucci, direttore della clinica di cardiologia dell'Università Politecnica delle Marche ad Ancona. Professore, buongiorno. Buongiorno. Professore, allora ci guidi lei. Occorrente, un polso, due dita e un orologio? Sì, questo è il modo per prendersi e constatare la regolarità del polso, il fatto che saltino dei battiti o che ci siano delle accelerazioni improvvise fa naturalmente pensare a un'aritmia. È logico che un non medico non può capire di che aritmia si tratta, si può apprezzare che è irregolare. E quindi questo può essere un modo per riferirsi poi al cardiologo. Certo, quindi se il battito è irregolare, ma quanti battiti dobbiamo avere al minuto? La normalità varia fra i 50 e gli 80-90 battiti al minuto in condizioni di riposo. Ecco, questa è un'altra cosa da dire, il polso è bene prenderselo quando uno sta riposato da almeno 5 minuti. Il numero dei battiti cambia anche in funzione dell'età, professor Capucci? Sì, la persona anziana tende ad a ridurre il numero dei battiti, si ha un calo un po' delle risposte anche agli stimoli esterni e quindi diciamo le condizioni di riposo della persona anziana sono di un calo di frequenza. E cambia anche in base ad alcuni momenti della giornata. Dopo pranzo, ad esempio, professor Capucci, è un momento buono per misurarci il polso o sarebbe meglio misurarcelo di mattina? Dopo pranzo bisogna considerare che con la digestione aumenta di circa 10 battiti la frequenza cardiaca e magari è il momento in cui questo aumento potrebbe favorire qualche aritmia, qualche estrasistole, quindi magari è un momento in cui può capitare che ci siano estrasistoli senza che si sia una patologia, quindi varrebbe la pena prenderlo in un altro momento quando si può stare più tranquilli, tipo la mattina o la sera prima di coricarsi. Professore, a proposito di ritmo, insomma quando il cuore perde o cambia il ritmo si parla di aritmia e una delle forme più comuni di aritmia cardiaca è la fibrillazione atriale. Ci spiega di che cosa si tratta e che cosa succede? Fibrillazione atriale è un'aritmia che fa accitare l'atrio in modo ad altissima frequenza, in modo irregolare, tipo 500 impulsi al minuto, che per fortuna non passano tutti al ventricolo perché noi abbiamo un filtro che è il nodo atrioventricolare, però anche il ventricolo può andare a più di 100 battiti al minuto in condizione di base. Quindi è una... E per lui è un forte stress? Per questo nostro ventricolo, perché non è nato per essere sottoposto a questo stress. Sì, è un forte stress, soprattutto quando la frequenza cardiaca si mantiene sopra i 120 al minuto sia di giorno che di notte, mentre noi normalmente abbiamo un calo fisiologico di frequenza notturna. Un tempo, professore, si pensava che la fibrillazione atriale fosse una patologia delle persone anziane. Ma l'età media dei pazienti si è ridotta sensibilmente negli ultimi decenni. Si tirano in causa molti fattori, ad esempio lo stress, l'abuso di alcol. Quanto lo stile di vita può essere veramente un fattore di rischio per l'insorgenza di questa patologia, indipendentemente dall'età? Sì, quello che lei dice è verissimo. È vero che la fibrillazione atriale è soprattutto degli anziani, perché il 10% della popolazione sopra i 75 anni viene colpito da questa aritmia, al di sotto dei 50-40 anni siamo a valori molto più bassi, però rispetto al passato vi è stato un aumento anche in queste fasce di età e si pensa che l'abuso di sostanze, che soprattutto nelle persone diciamo, che non prendono sostanze, il calo delle ore di sonno, oggi si considera il sonno come un'opzione e invece è molto importante per la salute generale, ma anche per la salute del nostro cuore. Secondo uno studio pubblicato su Neurology, che è una rivista scientifica molto importante, chi soffre di fibrillazione atriale, specie dopo un infarto, sembrerebbe essere più predisposto a sviluppare problemi di memoria. Ci sarebbe quindi un maggior rischio del declino delle funzioni cognitive. Questo ancora sottolinea questa ricerca lo stretto legame che esiste tra tutti gli organi del nostro organismo. Vero, professore? Cioè noi siamo tendiamo a considerarli un po' comportamenti stagni. In realtà l'abbiamo visto tante volte, ad esempio una sofferenza del cuore può riverberarsi anche sulla salute di molti organi, ad esempio del cervello. Sì, ci sono due meccanismi importanti con i quali la fibrillazione atriale può dare un calo delle capacità cognitive. Primo, il fatto che fibrillazione atriale è uguale calo di portata, quindi calo della quantità di sangue in circolo di circa 10-15% rispetto a chi non ce l'ha, e questo in una persona che ha già dei problemi magari a livello di perfusione cerebrale può avere la sua importanza. Sì. La seconda è la possibilità di avere dei microemboli ripetuti che facilitano la involuzione cerebrale, quindi si arriva a situazioni di vero e proprio Alzheimer senza che il paziente abbia mai avuto un vero ictus. Professore, passiamo dalla teoria alla pratica. Regole di prevenzione e poi che cosa la ricerca mette oggi a disposizione per tenere sotto controllo questa patologia e per evitare quindi danni. La prima cosa è la correlazione tra ipertensione e fibrillazione atriale, e quindi bisogna assolutamente che la nostra pressione sia bassa, che sia sotto i 135-35 regolarmente. E questo non sempre si ottiene anche in chi è in trattamento con farmaci ipertensivi. Seconda cosa, il peso, il body mass index, è uno dei fattori importanti e si è visto come la massa cardiaca e la massa corporea favoriscono la fibrillazione atriale, quindi stare nel peso, mangiare correttamente e riposare le ore che sono quelle che noi dovremmo riposare. Ognuno ha un suo numero di ore sufficienti e necessarie, ma quelle non bisogna trascurarle almeno per molto tempo. Professore, per chi invece ha ricevuto già una diagnosi, quali sono i trattamenti? Intanto bisogna capire se il paziente deve essere sottoposto a anticoagulazione per sempre, e questo è un primo, ci sono dei fattori clinici che indirizzano in questa direzione per prevenire proprio quegli ictus e quei problemi a cui facevamo riferimento. Certo. E secondo, controllare i sintomi in modo da evitare le ospedalizzazioni, perché la scarsa qualità della vita del paziente fibrillante è legata alle continue recidive e alle conseguenti ospedalizzazioni. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, saluto tutti gli ascoltatori.